col dire che questo dovrebbe essere stato, se non l'ultimo, uno degli ultimi trasporti dalla Francia alla Germania di rifiuti nucleari, e qui c'è da precisare in cosa consistono questi rifiuti nucleari. Consistono in quello che resta di un'operazione che si chiama riprocessamento del combustibile nucleare, che viene fatta nel mondo in pochi posti. In Europa ce ne sono due, uno in Francia, in Normandia, La Hague, e un altro in Inghilterra, a Sellafield, e perché è un'operazione piuttosto sporca, oltre che pericolosa, perché il combustibile nucleare irraggiato, quello che è stato dentro i reattori e ha funzionato per un po' di anni, è la parte più radioattiva, insomma, è un rifiuto cosiddetto di terza categoria, quelli ad altissima attività, per cui va maneggiato con estrema cautela, è pericoloso, è radioattivo, e l'operazione che si fa per riprocessarlo è finalizzata a recuperare il plutonio che c'è dentro, perché poi, secondo, diciamo, certi punti di vista, è riutilizzabile, in alcuni casi viene fatto dentro i reattori nucleari per farli di nuovo funzionare, caricando del combustibile misto, uranio e plutonio. Questo per dire, c'era anche in uno dei reattori di Fukushima, il terzo, il numero 3, c'era sia combustibile all'uranio che combustibile al plutonio. Questa operazione, come dicevo, è molto sporca, oltre che perché il materiale in questione è molto radioattivo, ma anche perché si usano acidi solforico, soprattutto acido nitrico e acido solforico, per sciogliere questo componente, questo combustibile nucleare. Poi, con una serie di lavorazioni chimiche, si recupera il plutonio, si separa in piccolissime quantità, e quello che resta diventa un rifiuto. Quindi è un rifiuto liquido che poi viene cementificato, si costruisce una sorta di pasta, viene infilato in bidoni, si chiama vetrificazione il processo perché assume le caratteristiche di un vetro, e viene sistemato in bidoni non da 200 litri di volume, e a loro volta, che sono molto radioattivi ovviamente, perché tutti i residui sono molto, conservano la radioattività, e questi bidoni a loro volta vengono messi in contenitori di piombo molto grossi, schermati, che si chiamano castor, per essere, che vuol dire Cask for Storage and Transport of Radioactive Material, questo è l'acronimo, è castor, che è la casa praticamente, c'è anche una ditta che li fabbrica che si chiama Castor, ma insomma genericamente sono chiamati così, e vengono infilati dentro questi contenitori molto grandi, e poi vengono rinviati al paese di destinazione, cioè in questo caso la Germania per anni ha mandato il combustibile nucleare dei suoi impianti a riprocessare in Francia, alla Hague, e gli sono ritornati indietro questi fusti radioattivi, questi contenitori radioattivi, che poi ogni paese deve provvedere a stoccare, a depositare in un sito sicuro, eccetera. Qui il sito tedesco, quello più, per modo di dire, sicuro, perché ce n'è stato uno pochi mesi fa, che si è l'anno scorso per la precisione, un altro sito per rifiuti di seconda categoria, che è stato, era fatto dentro una miniera di sale nell'Assia, e questo deposito è stato inondato dall'acqua, ci sono state infiltrazioni d'acqua, si sono danneggiati tutti i fusti, quindi questi dovranno essere tutti rimossi con un costo enorme, insomma, inquinamento delle falde, perché i fusti si sono corrosi e quindi è fuoriuscita la radioattività. Questo per dire che i depositi sicuri al 100%, insomma, è un po' un'utopia, non esistono. Comunque, questo di Gorleben, dove erano dirette queste scorie, questi rifiuti provenienti dalla Francia, è grosso modo situato a nord-ovest di Berlino, tra Berlino e Lubecca, vicino, insomma, lungo il fiume Elba, in quella zona lì, e lì c'è questo deposito di scorie nucleari un po' di tutta la Germania. E queste operazioni da tempo sono contestate dai movimenti antinucleari, insomma, siano nella loro componente più ambientalista che più radicale. E questo treno in particolare aveva cominciato, un treno con una trentina di vagoni, tutti carichi ognuno di un grosso contenitore Castor che porta dentro questi rifiuti, e questi sono stati contestati, è stato cercato di bloccare il treno fin dalla sua partenza dalla Haag. Quindi le contestazioni e gli incidenti sono cominciati in Francia la settimana scorsa e poi sono proseguiti quando il treno è arrivato in Germania in varie località, cioè le autorità tedesche, il governo tedesco ha dovuto deviare più volte il treno su binari secondari fino a farlo arrivare a una cittadina vicino a Gorleben, dove lì è stato insomma con molto ritardo c'è arrivato, perché ieri sembra che c'erano veramente tantissimi manifestanti insomma opporsi a questo trasporto, e con scontri molto, anche molto violenti. Insomma, la Germania in questo ha una lunga tradizione, il movimento antinucleare tedesco non ha mai fatto sconti da questo punto di vista, insomma, fin dai tempi del blocco degli impianti nucleari negli anni 70, insomma, è sempre stato molto radicale. E quindi sono riusciti con molto ritardo a far arrivare il treno vicino a una cittadina vicino a Gorleben, poi da lì con dei camion lo trasporteranno, tutto scortato dalla polizia ovviamente, lo trasporteranno nel deposito, definitivamente nel deposito, insomma, per essere sistemati lì. E c'è da ricordare questo, che la Germania l'anno scorso, cioè l'anno scorso, quest'anno diciamo meglio, dopo l'incidente di Fukushima in Giappone, ha deciso definitivamente di uscire dal nucleare nel 2022. Quindi non solo non si costruiranno più impianti, ma nel 2022 si fermeranno anche le centrali in funzione. Questo è stato sicuramente una vittoria del movimento antinucleare, che però non ha dimenticato il problema dei rifiuti, cosa che viceversa sembra che abbiamo fatto qui in Italia, perché dopo il referendum non si è più parlato del problema dei rifiuti nucleari in Italia, e viceversa ci sono ancora, cioè sia pure in una forma, in una quantità molto più ridotta rispetto a quella tedesca, anche le trecce vecchie centrali nucleari italiane, il combustibile di questi impianti è stato inviato prima a Sellafield in Gran Bretagna e poi in Francia alla Haag per essere riprocessato. E dentro il 2020 cominceranno a tornare i rifiuti di questo processo, per cui treni contenitori come quello che ieri appunto è arrivato lì in Germania. Quindi ci sarà anche in Italia tutta questa movimentazione di materiale estremamente radioattivo, e quindi con i rischi del caso. Insomma, ricordo che qualche contestazione c'è stata sia l'anno scorso sia quest'anno per il combustibile nucleare in partenza dall'Italia, in particolare anche lì in Val di Susa, insomma, ci sono state delle manifestazioni perché il treno ha fatto, credo, quella tratta, insomma, passando per la Val di Susa ci sono state delle contestazioni a questi treni che portavano il combustibile nucleare in Francia. E quindi, tornando al nostro discorso, insomma, si riporrà sicuramente la questione, e attualmente non c'è, va ricordato, un deposito adatto ad ospitare questo tipo di rifiuti di terza categoria, non c'è in Italia, c'è da sempre l'intenzione di costruirlo, ci sono stati vari decreti, tutti ricordiamo quello di Berlusconi nel 2003 che decise di farla a Scansano Ionico, poi lì la popolazione si è rivoltata e non se ne fece più niente, e dall'epoca sono passati 8 anni, di questo progetto non c'è traccia. Il problema dei rifiuti italiani è anche, direi soprattutto dopo il referendum, è comunque grave, perché non si è dato corso all'Agenzia per la Sicurezza Nucleare, non ce n'è più traccia. Veronesi, il presidente, si è dimesso, non si parla più di questi rifiuti, si procede, tutto il lavoro sta in mano della Sogin che decide un po' tutto senza un'autorità di controllo vera e propria, insomma, quindi siamo al solito in una situazione in cui l'Italia brilla per mancanza di regole certe, di autorità di controllo, insomma di chi controlla le cose, e tutto viene lasciato un po' così fino a quando non scoppierà magari un'altra emergenza nucleare come quella di 7-8 anni fa, quando straripò la Dora, lì nel fiume, che un affluente del Po che passa nella zona di Vercelli, in particolare vicino a Saluggia, perché proprio a Saluggia c'è una grossa concentrazione comunque di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare che è ancora da ritrattare. Questo direi è un po' il quadro, quindi questi episodi, questi si sono verificati in Francia e in Germania, insomma, dovrebbero far riflettere su questa situazione del nucleare italiano. A questo proposito segnalo che c'è stato anche un appello che è uscito il mese scorso, sostanzialmente firmato da un certo numero di esponenti del movimento antinucleare, di ricercatori, di cosiddetti scienziati tecnici, eccetera eccetera, e che appunto è reperibile sul sito dell'Acqua Pubblica, perché è reperibile in vari siti, lì sicuramente c'è, chi vuole firmarlo, sottoscriverlo, in cui si denuncia proprio questo stato di cose in Italia dopo il referendum e questa totale dimenticanza da parte delle autorità di questo problema, che comunque va risolto, perché ci sono quei 3-4 siti in Italia in cui vanno sistemate le cose e non c'è un piano serio per risolvere questo problema, insomma, ecco, questo è un po' il quadro generale. Ecco, anche perché diciamo, questi rifiuti, la loro unica sorte possibile è quella di essere seppelliti in attesa che fra qualche secolo, qualche millennio diventino, insomma, non pericolosi. Non ci sono altre alternative a questo? Non, no? Ci sono altre alternative. Diciamo che si possono anche non seppellire, nel senso che i depositi possono essere geologici, ovvero sottoterra, o di superficie. In particolare in Italia gli ultimi orientamenti erano, per fortuna dico io, per costruirne uno di superficie, perché insomma il problema della instabilità geologica è, come ha confermato quell'episodio che citavo del deposito proprio in Germania, dentro una miniera di sale che si riteneva stabile da milioni di anni, eccetera eccetera, poi così non è, c'è sempre qualcosa di che non si può prevedere, e quindi a questo punto tanto vale farli in superficie, almeno se succede qualcosa si può intervenire con più rapidità, con più facilità, insomma, ecco, questa è un po' è meno peggio, diciamo così, insomma, però comunque che siano sottoterra o in superficie, insomma, il loro tempo di decadimento, di dimezzamento, in modo da poter essere trattati diversamente, è quello che dicevi tu. Centinaia, in qualche caso centinaia di migliaia di anni, dipende poi dal tipo di isotopo radioattivo di cui si tratta. Va bene, Giorgio, ti ringraziamo. Noi dobbiamo chiudere qui la telefonata, sì, perché pare che arrivino altre chiamate da Tiburtina, per cui vediamo un po' che succede. L'unica cosa, ecco, diciamo, per noi, per chi ci ascolta, sottolineare ancora il fatto che sono questioni queste con cui dovremo avere a che fare anche noi prima o poi, ecco, non sì, è, prima non o è un poi problema sicuramente che viene, bisognerà affrontare questo problema, sia dal punto di vista delle regole di sicurezza, sia dal punto di vista delle scelte, insomma, ecco. Assolutamente d'accordo, ti ringraziamo e a prestissimo. A ciao presto. Giorgio, un abbraccio. Ciao.